quanta fame nel mondo, quanti bambini soffrono, le mamme piangono e voi senza pietà. Il vostro cuore è nero da troppo tempo ormai e resto ferito da questa società. Mi guardo intorno, vedo tanta sofferenza. Cambiamo questo mondo, aiutiamo chi soffre. Dare ai bimbi una carezza per tutto il freddo che hanno subito, paura, violenza, terrore sulla loro pelle. Quante persone muoiono, anche la fame uccide i loro corpi denutriti sulle strade del mondo. E voi che non ascoltate il dolore, le grida disperate, indifferenti, come cenere spenta. Io ti do la mia mano, fratello, per combattere il sistema che umilia e calpesta i diritti umani. Fame nel mondo, fame nel mondo, fame nel mondo, fame nel mondo, fame nel mondo, fame nel mondo, fame. Fame nel mondo, fame nel mondo, fame nel mondo, fame nel mondo, fame nel mondo, fame nel mondo, fame. Governi che non governate, la fame non la conoscete, la vostra coscienza è sporca. Pagherete caro, pagherete tutto, nel mondo c'è tanto dolore. La terra si ribella al potere, voi giocate alla guerra e la gente muore. Aprite le porte alla fame, ridare pace alla vita, sconfiggere la povertà e libera la tua carità. Non si può ignorare, non si può calpestare il diritto alla vita e far finta di niente. Dico a voi signori, la tortura è insopportabile, la vostra freddezza è senza umanità. Siamo nella tempesta, prendiamo la speranza, la fame nel mondo spezza vite umane. Fame nel mondo, fame nel mondo, fame nel mondo, fame nel mondo, fame nel mondo, fame nel mondo, fame. Fame nel mondo, fame nel mondo, fame nel mondo, fame nel mondo, fame nel mondo, fame nel mondo, fame. Fame nel mondo, fame nel mondo, fame nel mondo, fame nel mondo, fame. Fame nel mondo, fame nel mondo, fame nel mondo, fame nel mondo, fame nel mondo, fame nel mondo, fame.